terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stasera ospiti Mexican Whiskey. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del disco Into the Sun, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato, il titolo Queen on the Beach. La vostra esperienza in sala di incisioni e quali idee musicali che hanno poi realizzato l'album. Beh, allora abbiamo registrato su un albergo, su una sala da pranzo di un albergo, in tre giorni. Interessante. E niente, abbiamo scelto le canzoni da mettere in questo disco perché ne avevamo altre di cui stiamo preparando per i nuovi live e per un futuro disco, spero. E futuro disco anche, sperando. E quello si spera sempre, sì. E niente, molto bello comunque che quando abbiamo suonato Into the Sun è uscito fuori il sole, eravamo bello a freddo al gelo, e ecco, è stato di speranza. Sì, appunto, quello sì. I brani generalmente nascono in fase jam, cioè ci troviamo e lavoriamo. Improvvisate. Esatto, improvvisiamo o lavoriamo su qualche idea. La prossima canzone per chi ci ascolta. Drinking All Along. Like us. In studio ancora con i Mexican Whiskey, recensioni varie, quali le più interessanti finora e cosa dicono del vostro CD? Tutto sommato abbiamo ricevuto delle buone recensioni da un po' tutti, diciamo, e ovviamente quasi tutti ci fanno notare che comunque facciamo stoner, che la classica frase detta stoner è un genere la classica frase detta dal giornalista che recensisce. Esatto, genere stoner derivativo di per sé stesso. Derivativo, bel termine, sì, infatti, non riesco a capirlo comunque. Vabbè, noi comunque volevo non precisare. Accettate però. Comunque. Sì, no, fa parte del gioco, quindi non è un problema. Certo. Tutti sono concordi sul fatto che comunque siamo più un gruppo live, anche se non ci hanno ancora visto, però la maggior parte sarebbero curiosi di vederci. Allora. Infatti, volevo precisare una cosa. Noi praticamente, sì, diciamo ci hanno catalogato sul genere stoner. In realtà ci sono molte influenze rock and roll e ci siamo inventati di sana pianta, anche se non ce l'ha detto nessuno, questo termine che ci piace ricordare. Noi quando ci chiedono che genere fate, facciamo un rolling stoner. Bello, insomma, come termine. Prossima track. Muse of My Music. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Mexican Whiskey. Voi restate sempre su Radio RCS.